Un mese intero con la testa nel pallone, un grande show da oltre 4 miliardi di dollari, qualcosa di mai visto nel continente africano. Il significato dell'Afromondiale non può essere sottovalutato per il Sudafrica, ovviamente, ma anche per il continente tutto. Per alcuni è un grande investimento sul futuro, per altri uno spreco di forze in un paese con troppi poveri, dove per ogni nuovo stadio inaugurato restano al palo progetti sociali, infrastrutturali e sanitari urgenti. Superata la fase di preparazione, nonostante lo scetticismo di molti, la sfida sudafricana si sposta ora sul piano dell'equilibrio criminalità-sicurezza di un paese che è arcobaleno anche nelle sue stridenti differenze e che sarà al centro dell'attenzione come mai è stato in passato. Molti i partigiani del fallimento, non solo tra le file dell'estremismo che non ha mai digerito la transizione democratica. Gli scenari sono aperti, l'esito è incerto. La prima economia africana è tale anche nella sfida che ha deciso di assumere. Vola alto e rischia molto, aggrappandosi fino all'ultimo alla buona stella del suo anziano leader Mandela, che dopo aver trascinato in Africa la grande kermesse, sogna ora di regalare al suo paese l'ultimo capolavoro.